piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Stasera al loro circo anche le sorelle Medrano pagano il biglietto. Poi, subito verso i quadrifogli della pista di gara, avanzano tempestate di lustrini. Si sono tassate come spettatrici, lavorano come cavallerizze. Doppio contributo allo spettacolo pro alluvionale. Tutte le sere la scimmia vede Tony e Cucciolo che si mettono coscienziosamente tra i piedi l'uno dell'altro. Ma ride ancora, e specialmente quando i colleghi a quattro zampe giocano a tagliarsi la strada col più complicato degli itinerari. Questi numeri del circo divertono anche gli habitué della casa. La tigre si slancia nel fuoco. L'elefante è per vecchia fama una pasta di bestione e lo dimostra anche stavolta col fragile puledrino. Ma quando tende la proboscide per la questua dei biscotti, le spettatrici ci ripensano. Anche i migliori caratteri possono avere le loro bizzarrie. Macario ha tanta simpatia per gli elefanti. Peccato che sia... Un cinegiornale dell'anno 1951. Era il circo Medrano. Beh, ascoltatela con un orecchio contemporaneo. Quanto vilipendio nei confronti degli animali. Il povero elefante costretto a esporre la sua proboscide per elemosinare i biscottini. La tigre costretta a fare dei giochi ridicoli insieme al cavalluccio. E il povero cavalluccio deve vedersi con la tigre. E l'orsetto, il cavallino e tutti gli altri animali lì, trattati al centro dell'arena, come se fossero appunto delle bestie, ma bestie non sono, sono esseri senzienti. Infatti è passata per la legge delega del riordino del settore dello spettacolo, approvata ampiamente, la nuova legge del codice dello spettacolo, che prevede il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Cosa vuol dire questo? Sono dall'approvazione di questa legge, che è accaduto ieri, oggi il mondo è in subbuglio. Beh, da una parte i lavoratori dei circhi dicono: beh, adesso che facciamo? Andiamo a casa. Senza animali non ci aiuta a raccontare storie. Le Cirque du Soleil è una, sono virtuosismi terrificanti. Poi ci vogliono le luci, le telecamere, la gente brava. Come si fa? Un'altra cosa, non è il circo. Noi senza l'animale, senza l'elefante che ci fa la foto del bambino sopra, senza il leoncino che le mamme prendono in braccio e fanno un'altra fotina, senza le scimmie, senza gli orsi, senza le tigri, senza il domatore con la pelle, i muscoli e il forcone in mano, che circo è? E si parla addirittura di un indotto piuttosto forte che si perderebbe, si parla di 15 milioni di euro all'anno che girano attorno al circo, poi per non contare i posti di lavoro. D'altra parte questa legge scontenta tutti, perché poi gli animalisti, quelli veraci, quelli sempre sulla barricata, dicono: ma ci prendete in giro, che vuol dire il graduale superamento? Vuol dire che lasciate la patata bollente al prossimo governo, che va a fare un decreto per attuare questa legge. Graduale superamento non vuol dire niente, vuol dire: va bene, la mattina quando vai con il secchio da Dumbo Jumbo con dentro il mangime, dice: mangia ancora, perché ci sarà un graduale superamento, forse chissà un domani, siccome gli elefanti vivono tanto, uscirai dal circo. Sì, ma poi dove li mettono tutti gli animali che escono dal circo? Dove li mandano? In giro per i parchi pubblici? Vedremo giraffe brucare sui pini delle strade romane? Vedremo leoni aggirarsi per le strade di Milano? Vedremo rinoceronti fermarsi a prendersi un caffè in un bar? Dove li mettono gli animali del circo? Insomma, una legge che è stata fatta, ma in realtà non dice nulla. Però noi questa mattina vogliamo ugualmente porci il dubbio: ma voi ascoltatori, vi cambierebbe la vita un circo senza animali? È ancora qualcosa di fondamentale per voi il circo? Siete ancora legati a questo ricordo che per me è un ricordo della mia fanciullezza? Non ci sarebbe circo senza puzza di cacca d'elefante. Non c'ha senso. Tu entravi, senti quell'odore di strame misto a quel profumino che mettono sulla segatura per coprire la cacca dell'animale, e quindi quello era l'odore del circo, che non mi dimenticherò mai. E infatti, ricordandomi questo odore, forse camperò ancora molto. 800240024. Signore e signori, ecco a voi il somaro assai raro, l'asino matematico, la nostra più grande attrazione, Pinocchio! L'unico ciuchino al mondo che sa niente di meno che fare di conto! Pinocchio! Quanto fa 2 per 1? Bravo! Due per due? La domanda è chiara e su questo oggi stabiliremo quello che è il vostro parere, che statisticamente forse, chissà, magari, non lo so, se qualcuno ce lo conferma, è rappresentativo del parere di tutta l'Italia. Ma che ci mettereste voi al circo se togliamo gli animali? Qual sarebbe uno spettacolo che vi farebbe attizzare, vi farebbe venire voglia di venire al circo? Come immaginereste un circo depurato dagli animali? Finalmente ci si arriverà prima o poi. Gli animali non andranno più al circo. Andranno, l'ho già detto, in sede di assemblea costituzionale, decideranno come dover definire il loro diritto a vivere, il loro diritto a determinarsi. Insomma, non saranno più nel circo. E il circo è sempre stato per gli umani il luogo della massima abiezione. Guardate, anche Collodi, nel suo libro pieno di simbolismi, quando vuol far vedere che Pinocchio ha raggiunto il grado più infimo dell'abiezione umana, cioè diventato un ciuchino, perché non studiava, non andava a scuola, andava al paese dei balocchi, non solo è diventato ciuco, diventa ciuco e va al circo, quindi animale esposto all'udibrio degli umani, che deve fare il buffone. 800240024, cosa mettereste al circo al posto degli animali? Paola. Grazie Gianluca, buongiorno a tutti. Io sono stata una bambina che è andata al circo, mi sono sempre piaciuti, però io credo che più che gli animali sia l'artista del circo, perché gli animali sì, però gli animali di media taglia, ma non leoni o elefanti. Cioè tu faresti una classificazione, come le valigie al check-in. No, le valigie no, perché sono delle creature. Però vabbè, comunque metteresti un misuratore di animali, oltre una certa misura, fuori dal circo. Piccoli cani, magari i cani, ma gli animali piccoli. Eh sì, ti sentono i proprietari di cani, saltano sulla sedia. Un attimo, ci sono anche dei cani che stanno nelle dove ci sono i terremoti, sono cani che sono delle creature fantastiche, i terremoti. Sì, si chiamano cane da cadavere, sono quelli che sentono l'odore della gente seppellita. Però li salvano, non solo cadaveri, sì, diciamo che fortunatamente salvano anche delle persone, quando c'è stato... Sì, succede, anche in San Bernardo, la neve. Io parlo di quello, però cani, anche perché i cani, se vogliamo andare a vedere anche quelli in casa, ci fanno compagnia, ci aiutano tantissimo, cioè sono terapeutici. Però un leone stanno in gabbia, scusa, anche quelli in casa stanno in gabbia, la porta è chiusa, non possono uscire. Non è proprio una gabbia, è un po' diverso, perché c'è l'affettività, è un po' diverso. Sai, cioè, che gliene frega il cane l'affettività, cosa. Scusa, il cane che gliene importa. No, io invece credo che i cani diano tantissimo, io sono proprio... Danno ma non prendono, che gliene importa loro che tu sei affettosa con loro, scusa. No, sentono, anche quando ci sono dei problemi i cani lo sentono, cioè lo avvertono benissimo. Certo, cioè, dei cani quando ti dimentichi di dargli da mangiare si arrabbiano un sacco. No, ma non solo per mangiare, proprio quando vedono che stai... Vabbè, triste, appunto, che ci vuoi mettere al circo, al posto dei leoni? I cani. Io sinceramente i cani credo che in certi casi sono molto meglio rispetto ai leoni. Sì, sai che noia, circo con i cani, dai, circo pidocchioso, scusa. Ci sono a volte anche degli animali che potrebbero anche essere più piccoli, quindi che soffrirebbero meno rispetto a un leone. Non ti capisco, scusa, ma che la sofferenza è legata alla statura? Cioè un uomo di 1,50 m lo puoi torturare, perché uno di 1,80 m soffre di più. Un uomo è un'altra cosa, però un leone è abituato a essere nei suoi ambienti, cioè un leone ha bisogno del suo spazio. Ma secondo te i leoni che vanno al circo, dove sono nati? Nella savana, li prendono con le reti e li portano al circo. È chiaro che non sono nati nel sono circo, allevati per il circo, poveracci. Vabbè, io rispetto il tuo parere, ci metteresti animali di piccola taglia, perché secondo te soffrono meno. Questa è la tua proposta, ottima proposta. Registro, cominciamo a registrare le proposte. Prima proposta di Paola, cambierei gli animali di grossa taglia con gli animali di piccola taglia, perché ha l'idea che c'è meno sofferenza. Mario, che ci metterebbe lei? Pronto, salve, ciao, buongiorno. Io segno intanto, devo cominciare a registrare i dati. È molto più faticoso quest'anno, perché mentre parlo devo inserire nel database della nostra ricerca statistica i vostri dati. Cani di piccola taglia, lei invece? No, io metterei solo gli umani. Ma che fanno gli umani? Devono fare qualcosa. Se li inventano, appunto. Deve essere preciso, dai, è una cosa scientifica. Ok, è una cosa cosa scientifica, allora beh, ci sono le altalene, per esempio, oppure i giocolieri, i clown. Altalene, giocoliere e clown. Nel circo, il circo con i giocolieri. Certo. Ma non c'è, non c'è un senso ironico, cioè gli umani nel senso perché sono dei mostri, come nel circo dei Freaks? No, no, non è. Hanno delle abilità e le fanno vedere superiori alla media. Quindi io circo soltanto giocolieri, giocolieri, sì, clown, sì, clown, sì. Sì, io non ci sono mai andato al circo con i miei bambini proprio perché ci sono gli animali. Se non ci fossero, io glieli avrei portati molto volentieri. Che secondo lei è, diciamo, una forma di inciviltà ancora considerare gli animali come oggetti da divertimento? Sì, non esiste che debbano stare in gabbia ed esibirsi. Gli umani invece, chi vuole esibirsi lo fa. È un mestiere come un altro. Assolutamente. Va bene. Sì. Allora, due proposte finora: circo soltanto con giocolieri, artisti umani, circo con animali di piccola taglia. Andiamo avanti. Giovanni, lei cosa metterebbe nel circo? Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, io racconto un aneddoto perché se dovessero togliere gli animali sarebbe un grande problema per tutti i miei vicini di casa. Il circo praticamente viene una volta ogni due mesi davanti a casa mia. Ogni due mesi ha un circo davanti a casa, sì? Esatto. Cosa succede? Che i miei vicini vanno con la carriola a prendersi i prodotti degli animali. E poi vanno, cioè, quelli che vengono detti in termine scientifico raccatta merda. Bravissimo. Vabbè, si chiama così, si chiama. Nelle campagne prende la carriola, vado a raccattarla a me. Così si dice. Esatto. E poi viene utilizzata nell'orto. Quindi vanno con la carriolina, ma la scelgono, che ne so, quella dell'elefante piuttosto che quella del mandrillo? Elefanti, tigri, leoni, tutto ciò che si Ma perché è particolarmente, diciamo, fertile la cacca del leone o della tigre? Ma, non lo so, domando. Guardi, da quanto mi risulta e mi dicono i vicini, è molto molto fertile. Quella quindi, del cammello poi è per... Quella del cammello è la migliore. Questo apre un sottomercato accanto al circo, potrebbe sostenere il circo. Cioè, se vendessero dei sacchetti, come vendono la crusca, ai miei tempi si usava per fare il pastone per le galline, si arrivava in grossi fusti e c'era la crusca dentro. Oggi un sacchettino di crusca costa quanto allora costavano 10 di quei fusti. Se per la stessa ragione la cacca di cammello, che penso nei posti dove ci sono cammelli ce n'è a tonnellate, fosse impacchettata e venduta, non so, nei centri biologici, secondo lei avrebbe un valore di mercato? Assolutamente. La sua vicina è convinta che la cacca di cammello faccia bene ai gerani del suo balcone? No, insalata, dopo l'odore insalata. Ah, per l'orto. Pomodori, per gli orti, certo. Vabbè, allora lei metterebbe gli animali soltanto a produrre cacca e rivenderla attraverso un circuito di eco e solidale di materiale biologico. Potrebbe essere, invece che esibirsi, invece che fare la cosa, li mettete tutti in fila, fanno la cacca, la gente guarda, con la carriola la prende e se la porta a casa. Ha un senso, non sarebbe sfruttamento, è un lavoro come un altro. Timbrerebbero il cartellino, si mettono lì, la fanno, tanti vasini da animale, il vasone per l'elefante, circolo per raccattare la cacca. Un'altra proposta, Balzana, ma c'è 800240024, cosa fareste al circo se noi leviamo gli animali? Stefano. Buongiorno, niente, io ho avuto il piacere di guardare anni fa un grandissimo spettacolo circense, il Circo du Soleil. Sì, l'avevo già citato, strafamoso. Che non ha appunto nemmeno l'ombra di un animale ed è stato uno spettacolo davvero grandioso perché appunto caso e ci lavora dentro un sacco di gente, veri artisti, dai costumisti, è un po' come andare richiede, al teatro. Richiede una macchina spettacolare immensa, richiede lo una macchina spettacolare a luci, riprese, ma guardi, uno spettacolo veramente, lo conosco, io ho pagato bene il biglietto €90, poi io da Bari sono andato a Pesaro a vederlo quell'anno. Da Bari a Pesaro, sì? Apposta per vedere il Circo, perché appunto... No, è uno spettacolo fantastico, indubbiamente. Fantastico, ci lavora, poi ho visto anche uno speciale, in TV ci lavorano 200 persone oltre agli artisti tra costumi. Sì, ma non ci faccio la storia del Cirque du Soleil. Io le pongo il problema. Il domatore, il pagliaccio che attizza le tigri, guardi, che fanno poi? Io ho una proposta. Vogliamo proposte, non, guarda, non delle disquisizioni. Dobbiamo eliminare animali dal circo perché è un peccato. Invece dovremmo mettere. Sì, però aspetti, scusi. Se elimina gli animali, dove li mette? Perché non è che li elimina e poi ci fa un falò. Ci sono degli zoo. Nella nostra zona. Quindi gli zoo non vanno chiusi. No, perché comunque vengono trattati bene, non vengono comunque. Come dire, non devono essere frustati, fare i balletti. Sì, fanno lì, certo, non è il loro habitat. Vabbè, però naturale, un pensionato però... per animali da circo, tanto fra, mettiamo fra 50 anni non ci saranno più gli animali non da circo. Non ci saranno più e quindi comunque li mandiamo in pensione, non deve stare in pensione. Lì a saltare nel cerchio infuocato, ma sta lì a mangiare carne. Una giusta pensione. Ci metterei i politici. No, che idea. E tutti i politici. Tra l'altro, senza rete, possibilmente, di protezione e fargli fare i trapezisti o magari... Ma tutti i politici fargli... metterebbe? No, perché tutti voglio... I politici, non tutti. I politici che... Quelli che non piacciono a lei. E quali lascerebbe fuori? E quali lascerebbe fuori? Beh, attualmente ce ne sarebbe veramente un problema, perché tutti entrerebbero a fare la parte della Però, si rende conto, questo è il luogo comunismo più bieco, tutti sì, i politici. Che vuol dire? Ahimè, una non cazzata, pensavo su. Di arrivare pure io a questo luogo. No, guarda, si no, lo dico, lo sa, perché uno può avere un giusto risentimento e un giusto spirito critico, ma sta cosa qui ci vorrei i politici. Lo lasci dire a chi va a comprare i cetrioli al mercato, che si arrabbia perché magari costano troppo. È un luogo comune, non tutti i politici. La politica può avere dei correttivi, non ci piace qualcosa della politica, venire tutti i politici al circo e poi gli altri che fanno? Cioè, una loro funzione devono essere, i politici devono esserci. Fate in modo di rettificare la politica, di partecipare attivamente alla politica. Poi ci sono le elezioni, nemmeno la metà va a votare e poi dico i politici tutti al circo. Scusi, non volevo fare il pistolotto. Beh, Paolo è finito, beh, è finito anche la... Ah, Paolo. Comunque, sì. Paolo... Sì, ecco. Allora riassumo, Paolo, mentre lei ci pensa, le proposte fatte finora: cani e animali di piccola taglia, mettere soltanto una sorta di produzione per cacca fertilizzante, metterci delle persone, dei politici al posto degli animali. Lei cosa metterebbe al posto degli animali? Guardi, intanto salve, grazie della parola. Io diciamo che, essendo la radio di Confindustria, faccio, nonostante mi abbia bruciato l'intervento l'ascoltatore precedente, faccio riferimento anch'io su lei, non tanto perché ha tolto gli animali, nonostante io, da utente del circo anche in televisione, mi sono sempre annoiato a morte il momento degli animali. Ma no, sotto Natale, quando c'è il circo in televisione, è una cosa, fa addormentare proprio. Cioè, uno digerisce il panettone, i cappelletti, accende il pomeriggio la televisione, vede il circo e comincia a ronfare fino a Santo Stefano. Ecco, io non ho riserve particolari sull'uso dell'animale, nel senso che penso che deve essere tutto assolutamente, come dire, umano e nell'utilizzo di un essere vivente, però insomma, ecco, non sono completamente contrario. Il fatto è che negli anni 90 il business del circo è sempre stato in perdita, chiudevano continuamente diciamo attrazioni di questo tipo, tranne questa società canadese che è le Cirque du Soleil, che ha inserito le arti del ballo e della danza, della scenografia, che ha portato al circo un altro target, dai bambini che erano così affaccendati in videogiochi e a fare tutt'altro. No, ma è un altro spettacolo, è un'altra cosa il Cirque du Soleil. Ecco, il Cirque du Soleil di fatto è un circo, ma con un'attrazione completamente diversa. Quindi si tratta di togliere gli animali, come ha detto l'altro ascoltatore, e di posizionarli in altri contesti e di sostituire lo spettacolo dell'animale con uno spettacolo. Vabbè, alla fine ci ha girato tanto intorno, ha detto la stessa cosa che ha detto quell'altro. Togli animali, lasciamo perdere, ne abbiamo detto, bravissimi, non nominiamo più le Cirque du Soleil perché non c'entra niente. In questo momento parliamo del circo, quello coatto, quello antico, quello con la donna cannone, quello con il nano e quello col pagliaccio che non fa ridere nessuno, anzi fa piangere, quello con le pezze al culo, quello con le gabbiette con gli animali, quello che c'è lo zoo che si fa il giretto dentro lo zoo prima di entrare, quello con la foto con i bambini sull'elefante. Quello vogliamo sapere. Se leviamo gli animali, cosa rimane? A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Per sempre il sipario sullo spettacolo più grande del mondo, il circo dei fratelli Ringling e di Barnum & Bailey, un pezzo di storia americana durata 146 anni tra nani, ballerine, donne cannone, giocolieri e animali esotici. Internet e i videogiochi da una parte, gli animalisti dall'altra, hanno segnato il destino dell'anacronistico circo più famoso del mondo, che ha fatto sognare intere generazioni. I 500 lavoratori del circo hanno dato addio alle scene sulle note del valzer delle candele. Persa la causa contro gli animalisti, il circo aveva già mandato in pensione la sua squadra di elefanti. Questo a maggio chiude il circo Barnum. Ma però vedete, anche la parola, facciamo il circo Barno, facciamo un casino, una cosa che non c'ha senso. Nani e ballerine, ha detto la speaker di questo servizio. Nani e ballerine è stata una definizione classica per definire la sottopolitica, la politica davanti spettacolo negli anni Ottanta. Abbiamo sempre avuto, sì, il fascino del circo, ma un'idea di denigrazione dell'aspetto circense. Il solito furbacchione dice: ci metterei i giornalisti al circo. Noi al circo ci andiamo sempre. Io parto fra mezz'ora, finita la trasmissione, vado a fare il circo. Vado a Comodo, c'è un TED, lo sapete che è un TED. Prendono un po' di persone, fra cui anch'io, sarà anche Veltroni, lo mettono al centro di una stanza che sono 1000 persone e questi parlano per un quarto d'ora e dicono quello che vogliono sul futuro. E ci sarà, quello non è circo. Io al circo ci vado tutti i giorni, il mio mestiere è stare al circo, non è che mi offendete. Faccio qualche proposta. Mi è venuta in mente durante la pausa cosa metteremmo al circo al posto degli animali. Io cosa ci metterei? Combattimento all'ultimo sangue fra robot, quindi dei robot semiumani, già c'è con le macchinine robotiche, c'è un programma in televisione e li fate combattere, fumano, si ammazzano, si fanno a pezzi, i robot non fanno male, non sono protetti ancora da nessuno, ancora per un po'. Un reality show, mettete la casa del Grande Fratello al circo, al centro dell'arena, e state lì a guardare. Scusate, la gente la guarda in televisione, la guarderebbe anche al circo, con delle possibilità magari di intervento. Poi, altra cosa, che mi sembra la cosa che più attinente allo spettacolo che ci perdiamo con gli animali. Allora, è piena l'umanità di masochisti. I masochisti cosa amano fare nella forma più estrema? Stare a quattro zampe, mettersi il boccaglio in bocca, la museruola, farsi legare, farsi frustare, andare in giro come cagnolini. Ecco, è il loro piacere. Fai lo spettacolo, ne prendi 10, li metti dentro la gabbia, gli dai le frustate, sono tutti contenti, li fai camminare a quattro zampe, puoi fare quello che vuoi, la gente può tirargli secchiate di robaccia dalle tribune, quelli tutti contenti, fanno il giro e i bambini gli posso dare un calcio sulle palle e quelli tutti felici. Insomma, spettacolo con i masochisti al posto degli animali. Metti insieme due necessità, quella di farsi picchiare da parte dei masochisti e quella che salvi gli animali e la gente si diverte lo stesso. E poi pensateci un po' voi. Gilberto, cosa metterebbe al posto degli animali? Buongiorno Nicoletti, sottoscrivo in pieno queste ultime sue proposte. Mi è venuto in mente nella pausa, dico, c'è tanta gente, non chiederebbe di meglio che si è messa in gabbia. Perfetto. Ci sono negozi a Roma, guardi, ce n'è uno a Corso Vittorio, vendono la gabbia, costa, non so, 3.000 euro, 5.000 euro. Sì, una gabbia che uno si mette nel garage e ci si fa chiudere dentro. Metti insieme la domanda e l'offerta. Perfetto, sono perfettamente d'accordo. Io suggerirei il trasferimento immediato delle belve feroci nei loro paesi di origine, con un trasporto eccezionale. Sì, ma lì muoiono su, poverini, muoiono subito. Mette un leone nella savana, muore dopo. Posso dire, per un leone, meglio un giorno da leone che 100 anche da pecora. Anche muoiono in bellezza, chi se ne frega. Vanno lì, esatto, bravo. Esatto. Giustamente, c'ha ragione. Secondo, manterrei i cavalli, così manteniamo anche quel tipico odore di cacca di animale nell'ambiente, con gli spettacoli di destrezza, tenendo presente che i cavalli già, quando sono addestrati al salto e al dressage, certo, sono torture forse peggiori di quelle del ma adesso circo. Poi si rivoltano gli allevatori di cavalli, comunque un cavallo addestrato, vabbè, ragazzi, un cavallo addestrato, cioè è addestrato, certo, il volteggio lo fanno nella Federazione Italiana Sport Equestri, sì. Perché non possono farlo al circo? Sì, dressage, esatto. Anche il dressage posso farlo in un circo, certo. Perfetto, sa che in posizione su un cavallo addestrarlo al dressage voglia è lunghissimo. Perfetto. Certo, chiaro. Però nessuno dice niente, ok. Le belve feroci invece è giusto che se ne stiano a casa, anche perché io ho frequentato il circo da bambino e da padre con qualcuno dei miei figli. Cioè l'elefante che gira su se stesso sul tappetino, il leone che fa l'inchino, sinceramente non sono le cose che ricordo. Sì, poverini, a me ho sempre fatto pena. Ma sempre fatto. Per il dromedario con la schiena storta, poveretto. E poi ma perché mi spiega una cosa, il dromedario del presepio, quelli del presepio, c'ha la schiena dritta. In tutti i film, da Lawrence d'Arabia ai film di Ali Baba e 40 radoni, c'ha la schiena dritta. Perché il cammello e il dromedario del circo ha la schiena moscia? Perché sono depressi. Gli si ammoscia la schiena. Ma c'è come i cetacei negli acquari, c'ha sempre la pinna storta, perché sono depressi. Ma veramente, lo sai che mi ha sollevato una domanda che faccio da bambino. Sì. Lo dicevo, mamma, perché il cammello c'ha la gobba storta? Perché non è depresso. Non ho fatto studi veterinari, ma credo che ci vorrebbe una sorta di Viagra per cammelli, si drizza. Pro- Esatto. Poverino. Lo rimandiamo a casa sua, il cammello probabilmente sopravvive. E quando a casa sua gli strizza anche gli strizza la gobba. Ottima, Pasquale, bell'intervento. Matteo, Matteo. Matteo è caduto, ma dice una cosa banale, ho visto spettacoli bellissimi senza animali, ho capito, ci sono, cosa mettereste al posto degli animali? Gilberto, Pasquale, cosa metterebbe al posto degli animali, ammesso che voglia togliere gli animali? Ma guardi, proprio se lo devo dire, i politici, guardi. Ancora, ma già l'hanno già detto. Ma tra le cose più originali, almeno, dite che ne so, gli arcivescovi, i commercialisti, gli avvocati, cioè inventate qualcos'altro. Sta roba dei politici, cioè i politici stanno lì perché siete voi che lo volete, su, Mettano loro questo posto, assolutamente. Sì, ma non è che il politico è staccato dal paese. Scusi, ogni politico sta lì perché c'è un suo collegio. Nel suo collegio, comunque, sono persone che sono suoi parenti, suoi amici, gente con cui ha a che fare. Smettiamo di pensare che i politici sono qualcosa di staccato dal mondo. No, sono la nostra espressione. Può non piacerci, andiamo dallo psichiatra perché non ci piacciamo. Avanti, c'è qualcos'altro da dire? Posto alla politica, l'hanno scelto loro, quindi parenti. Vabbè, arrivederci, buona giornata, è finita. Okay, 800 24 0024. Parliamo di cose serie. Cosa mettereste al posto degli animali nel circo? Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Melog. Continuano ad arrivare sms, telefonate, le persone dicono al circo ci metterei i politici. Io non è che voglia difendere la classe politica, non me ne importa solamente nulla. Però trovo che il dissenso omologato, che non ha nemmeno l'ardire di trovare un'idea originale su quello che è l'oggetto del proprio dispitto, del proprio disprezzo, ecco, non merita spazio, non vi faccio parlare, è una banalità, una sciocchezza. Metterei i politici al circo, perfetto, e poi che succede? Li vai a vedere cosa fanno, e quando li hai visti cosa fai? Io sono convinto, se qualcuno rapisse tutti i parlamentari, tutti gli uomini politici d'Italia, ci sarebbe la fila degli orfani, stareste tutti lì a piangere, dove sono, dove ce li hanno messi? Siamo perduti, non c'è più nessuno, o vi ci mettereste voi al posto loro? E mettetevi in politica, se pensate di poter far meglio, mettetevi in politica. Odio la banalità, odio il dissenso quando affonda le radici sul luogo comunismo, cioè quello che dicono tutti. Almeno sforzatevi, abbiate l'ardire di fare qualcosa di diverso. Gaetano Bresci andò a sparare addosso a uno, non dico dovete far questo, ma inventatevi delle parole che facciano altrettanto male, scavate nel profondo del vostro immaginario. Dire di mettere al circo i politici è una banalità estrema. Alessio, cosa ci metterebbe? Buongiorno Nicoletti, io ci metterei 2 ore di spettacolo di contorsionista. Oh, questa è una bella idea, la contorsionista è qualcosa che non esiste più. Anche il mangiatore di spade ci mette. Andavo sempre al circo, ho le foto con i leoncini, ho le foto con gli elefanti, ma il numero principale per cui anche da bambino aspettavo la contorsionista. Poi dopo che è cresciuto ha anche capito fuma con i piedi, stando appoggiata sui ginocchi, avendo tutti i suoi attributi sopra la testa, crescendo ha anche capito diciamo l'uso improprio di quel tipo di spettacolo, l'ha compreso. Esatto, non fa male a nessuno, stimola tutta la fantasia. Anche si vedono poco da noi perché sono soprattutto diciamo cinesi e orientali, sono russe che è uno spettacolo fantastico perché è il corpo umano forzato la sua destinazione originale d'uso, è fantastico, sì, è anche spaventoso per certe cose, sono d'accordo, spettacoli fisici estremi, contorsioniste, ginnaste, ma questo è bello, sì, una bella idea, al posto degli animali, umani che sappiano fare cose inumane. Tiziano. Sì, pronto. Cosa metterebbe al posto degli animali nel circo? In funzione di questa proposta io pensavo a un talent circus, invece che ci siano solo dei pochi programmi dove c'è una giuria, che sia il pubblico a valutare questo tipo di performance. Ecco che allora è una cosa itinerante, ognuno nella sua area di competenza dove viene posizionato questo circo, a maniera diciamo di avere una cassa di risonanza e un auditorio un po' più diciamo locale. È come, con... come l'eliminatore di Miss Italia, si va paese esatto, per paese, no, esatto, si, fa, si fa il casting. Si fa una sede centrale per le finali, sai, anziché la fila, le selezioni con tante... Qui diciamo c'è un auditorio che viene... Io vado, che ne so, a Ponte Pattoli, a mena località vicino a Perugia, seleziono 5 campioni in varie specialità e il giorno che il circo va a Perugia questi vanno lì e si esibiscono. Esattamente. È come un campionato, un campionato. Talenti in Italia ce ne sono tanti, vanno solo diciamo... Ma quali specialità? Perché insomma fa tante gare di rutti, braccio di ferro, mangiare le tagliatelle... Cosa la creatività italiana non è seconda a nessuno, quindi ognuno cerca di trovare la sua... Va bene, insomma, ci passa di tutto, dal petomane all'equilibrista, fare delle nuove discipline ginnico-sportive, ludico-circensi, metterle in Italia e fare un campionato, il campionato del circo. A questo punto il circo diventa l'arena viaggiante in cui si eleggono i campioni. Dovrebbe essere, secondo me, specialità casarecce, cose proprio veramente da festa di paese, che non esistono più. La pentolaccia, la corsa ai sacchi, queste cose sceme. La gente riderebbe, ci andrebbe. Sono convinto questa è una buona idea. Marco. Sì, ciao, buongiorno. Cosa metterebbe al posto del circo? Io metterei un vero e proprio campionato di comicità. Cioè viene il circo Medrano o l'Orfei nel mio paese e i comici che vogliono mettersi in mostra vengono e si presentano, hanno un pubblico, magari metti un piccolo premio, come viene fatto negli Stati Uniti nei locali. In certo, Italia non c'è. Uno Zelig itinerante. Uno Zelig itinerante. Vedi che ci sono le idee, però vedi che a spremersi ci sono di idee. Di idee ne vengono fuori, bellissimo. Bisognerebbe riportare alcuni dei format televisivi a una dimensione più umana. Portare la televisione, che ormai è morta, è un cadavere, è già putrefatta, però ha avuto delle idee di intrattenimento e soprattutto ci ha condizionati a certi tipi di intrattenimento, di format, riportarli esattamente nell'arena del circo. Sarebbe una sorta di dimensione umana dello spettacolo televisivo. Ci stiamo arrivando, sono molto soddisfatto del mio pubblico. Giuseppe. Ciao, ascolta, io metterei dalla parte più bassa, dalla parte dalla tecnologia, diciamo, ci metterei evoluzioni con le biciclette. Quando vedo Brumotti a Striscia, vedo trovare delle cose che ammiro e vorrei saper imitare, ma quelle evoluzioni, quel genere di evoluzioni, evoluzioni se no con le motociclette. In America è famoso quel cerchio fatto di una rete metallica dove girano all'interno le motociclette. E io quello da piccolo però l'ho visto, esisteva, c'era il circo con le moto. Esisteva, no, esisteva, ma non c'è io più. Me lo ricordo, io me lo ricordo. Con delle motociclettine. Quanto tempo fa? 50 anni fa, c'è più. 55. Fagli fare ai clown stessi, fai fare l'evoluzione. Sì, ma cioè io mi ricordo, forse. C'era anche il pagliaccio, a un certo punto entrava con la moto, si schiantava tutto, il nano con la moto, tutto era bellissimo. Era. Quello mettere, perché le bestie feroci, fagli fare i safari alla gente, si vuole andare a vedere nel loro habitat, ma non nei circhi. Scusi, visto che lei, Giuseppe, mi sembra tecnologico come ispirazione, ma tutto quello che ormai è il videogame... trasformarlo e trasferirlo nell'arena del circo, cioè riportare in una dimensione in cui esiste il contatto umano quelli che sono gli intrattenimenti ludici della società contemporanea. Quindi a ognuno diamo un piccolo joystick e il grande gioco collettivo si svolge all'interno dell'arena, potrebbe essere un'idea? Ma non solo, ci potrebbe anche addirittura, i romani erano soliti quando facevano gli spettacoli dei gladiatori, a volte inondavano completamente il Colosseo per riproporre le battaglie navali. Sì, anche a Piazza Navona lo facevano. Genere. Sì, anche a Piazza Navona. Una cosa del genere. Però anche soltanto mettere dei sacchi, mettere qualcosa e far fare tipo una battaglia di paintball. È presente quei fucili che sparano le palline colorate? Quindi bisognerebbe ritornare. Giuseppe, mi aiuti, che secondo me ci siamo. Ritornare all'antica origine, il circo all'inizio era il Colosseo, cioè, certo la gente dentro si scannava, erano gladiatori, erano tempi brutti, riportare una sorta di combattimento non cruento con mezzi contemporanei, vuoi virtuale, vuoi con i proiettili a vernice colorata all'interno del circo, questo mi sembra una buona idea. Grazie. L'ultimo, Filippo. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. No, io invece premetto, sono amante degli animali, ho un cagnolino, quindi sì. E non sono cacciatore, però diciamo gli animali devono essere al circo, perché sul punto di vista per un motivo principale, per i bambini è una cosa anche didattica, almeno per me lo è stata, perché io per la prima volta al circo ho visto certi tipi di animali. Che non sì, però non esisteva National Geographic, non esisteva Netflix, che è pieno di documentari. Di andare a fare, non so, sì, è un po', diciamo, a me personalmente non importa nulla, non è un problema, insomma, mai posto. Però devo dire, è un po' arcaico dire, perché se no i bambini non vedono i leoncini, figuriamoci, oggi ne vedono talmente tante di animali rappresentati anche in maniera molto più realista e molto più da vicino, che andare al circo non è proprio la forma di iniziazione al mondo animale più adatta alla contemporaneità. Grazie, belle idee ci avete dato, alla prossima.